8.36 minuti, di nuovo in diretta, Radio Città del Capo Angolo B. Ci state già scrivendo rispetto alla domanda che vi poniamo questa mattina, il nostro tema del giorno. La domanda è molto semplice: siete andati a vedere il film Diaz? Ci scrive Silvia: visto, il cinema era pieno, posti in piedi, platea basita, film così così secondo lei, ma indispensabile per gli umare le lesciure che credevano alle balle della propaganda colpevole, mandante e scellerata. Voglio vedere ora chi osa dire che non è successo. Poi Silvia mi chiede di ricordare l'ultima sentenza, su questa il film non è aggiornato, dice. Allora, cara Silvia, finora siamo alla sentenza della Corte d'Appello di Genova, che ha ribaltato il giudizio di primo grado. Ci sono 29 poliziotti condannati, tra di loro alcuni grossi nomi della polizia, e si sta attendendo la Cassazione, che è già stata fissata a giugno e che dovrà decidere sulle condanne, ad esempio, di Francesco Gratteri, che adesso è il numero 2 della polizia ed è stato condannato a 4 anni, ma c'è anche Giovanni Luperi, che oggi è all'Agenzia per le Informazioni e la Sicurezza, l'AISI, anche lui è stato condannato a 4 anni. Spartaco Mortola, 3 anni e 8 mesi, era l'ex dirigente della Digos di Genova. E Gilberto Calderozzi, ex vice capo dello SCO, a 3 anni e 8 mesi, insomma alcuni dei grossi nomi della polizia sui quali la Cassazione si dovrà pronunciare a giugno in un'udienza che è già stata fissata e che durerà 5 giorni. Poi ne parleremo anche con i nostri ospiti di questa vigilia di Cassazione. Adesso però rassegna stampa locale. Alle 8.57 minuti adesso entriamo tutto d'un fiato fino alle 9.30 con il nostro argomento di questa mattina. Ci state già scrivendo: siete andati a vedere Diaz? Questa è la domanda molto semplice, ovvio che poi vi chiediamo anche cosa ne pensate. Ci scrive Fra: Diaz non lo abbiamo ancora visto, ma in compenso abbiamo visto Black Bloc, un vero pugno nello stomaco, ed è il documentario di Carlo Bashmit, che è anche tra i consulenti del film Diaz di Daniele Vicari, ed è un documentario molto forte che ripercorre attraverso interviste le biografie di alcuni ragazzi picchiati, massacrati, perché è giusto dire così, all'interno della scuola Diaz, e poi passati anche a Bolzaneto, come se non bastasse. Stefania ci scrive: ciao cari, secondo me questo film non è un capolavoro né un documentario storico in senso stretto, ma forse è meglio così. Racconta e ci fa vedere semplicemente, con la leggerezza di un pugno sullo stomaco, ritorna questa frase, quello che è stato, sulla base degli atti dei due processi conclusi, appunto all'interno della scuola Diaz. Ci si vergogna, ci si arrabbia, si fa davvero fatica a credere che sia accaduto, scrive Stefania. Scusa se abbrevio la tua mail. Sottolinei anche il fatto che siano state massacrate, trattate così male le donne, no? Siano stati così pesantemente ridotti i diritti. Dice Stefania che è un dovere sociale che più persone possibili, giovani e non solo, vadano a vedere questo film, e poi avrebbe voluto che si fosse inserito all'inizio, alla fine del film, ad esempio il link www.processig8.org, dove sono contenuti gli atti processuali. Continuate a scriverci: 348-7649-289, il numero di sms, diretta @radiocittadelcapo.it, e invece l'indirizzo di posta elettronica. Partiamo dal regista, lui è Daniele Vicari. La vicenda politica è una cosa, diciamo, molto complessa, perché io non capisco bene che cosa vuol dire. Cioè, la politica è una cosa molto complessa di per sé. Raccontare le dinamiche che c'erano dentro il G8, raccontare le dinamiche che c'erano tra i rappresentanti politici italiani e quelli stranieri, tra i rappresentanti politici italiani e le forze dell'ordine, è una cosa che secondo me in un film non si può fare. Si può fare in un talk show. In un talk show può trovare spazio anche la discussione politica, ma in un film racconta una storia. Diaz è un film che racconta una storia terrificante che abbiamo rimosso tutti quanti, un film che viene a 10 anni da quei fatti. Non è stato mai fatto un film di finzione di questo tipo, nel mondo non sanno che è accaduta questa cosa in Italia, o lo sanno molte poche persone, e quindi quello che io ho fatto è, a partire dagli atti, raccontare le cose accadute con una forma narrativa universale che tutti possono comprendere. Secondo te perché non è stato fatto in questi 10 anni un film su questo tema, che forse, dimmi se sbaglio, cioè si presta ad essere narrato attraverso un film? Il buon vecchio Rosi racconta che quando volle fare Salvatore Giuliano, il suo avvocato gli disse: guarda, se vuoi uscirne vivo, segui gli atti dei processi, anche se sono incompleti e ti sembrano, diciamo, confusi. Perché? Perché se io al cinema rappresento te e tu non ti riconosci, tu mi denunci e blocchi il film, ok? Questa cosa è così in tutto il mondo. Quando si fa un film in cui ci sono in ballo decine e decine di persone, centinaia di persone, con i nomi e i cognomi, persone sia che appartengono alle forze dell'ordine che alla società civile, questa cosa diventa un ginepraio inestricabile, ok? Non si è mai fatto un film di finzione su questi temi, anche per questo motivo. Ora, grazie al fatto che ci sono state le sentenze di primo e poi di secondo grado, è stato possibile affrontare i temi e anche attribuire delle responsabilità. Per esempio, una cosa assolutamente indiscussa nel processo di primo grado e anche in quello di secondo grado sono i fatti accaduti. Cioè, nel primo grado, anche se non sono stati condannati, diciamo, i dirigenti della polizia presenti lì, comunque la sentenza riconosce che tutto quello che è accaduto è accaduto, e questo permette di poter attribuire a persone in divisa dei comportamenti che altrimenti non sarebbe possibile attribuire. Tutto qua. E con il secondo grado ancora di più, addirittura si possono rappresentare anche delle persone, diciamo, dei personaggi che hanno dei ruoli di comando, che hanno, no? E che in qualche modo sono persino riconoscibili, se uno è un po' attento e conosce queste robe può anche riconoscerli. Ascolta, Daniele, tu stai facendo un po' il giro d'Italia anche con il film, no? E quindi sei presente alle proiezioni e poi rispondi anche alle domande, come è avvenuto qua a Bologna qualche giorno fa. Che cosa ti porti dietro da queste serate, da questi confronti con persone che magari o ci sono state a Genova e hanno vissuto in prima persona il G8, oppure semplicemente sono spettatori del tuo film? Siccome io ho fatto un film, non ho fatto una cosa di cronaca, questo film parla attraverso le emozioni, e le persone alla fine del film restituiscono, no, vivono queste emozioni in maniera molto forte. Sia le persone che c'erano che quelle che non c'erano ricevono dal film una serie di sollecitazioni, no? E quindi i sentimenti che provano sono quello di frustrazione, di rabbia, di dolore, sono tutte le emozioni che io ho provato leggendo gli atti dei processi. Sono contento in qualche modo di essere riuscito a trasferire attraverso il film questo tipo di emozioni al pubblico. Io non voglio più di questo, cioè a me non interessa avere più di questo, a me interessa che chi entra in contatto con questo film si faccia delle domande. Il 99% degli italiani pensano che la polizia ha fatto benissimo a massacrare di botte le persone che erano lì dentro, e quindi solamente attraverso un percorso, come posso dire, narrativo e emotivo io posso arrivare al cuore di queste persone che sono convinte di questo, non certo facendo un articolo, diciamo, di giornale o una trasmissione televisiva come purtroppo alcune persone chiedono che sia il cinema. Tu al G8 c'eri, cioè la domanda vuole anche chiederti questo: perché ti sei interessato a questo tema? Allora, io al G8 non c'ero, ho partecipato partecipato a molte riunioni di preparazione, no, per andare al G8, poi per una serie di motivi così personali e anche di lavoro non riuscii ad andare. Devo dire che avevo molti dubbi, per esempio io ero uno di quelli che era assolutamente inferocito con chi dirigeva il movimento allora per il fatto che non si facessero dei servizi d'ordine. Mi sono sempre chiesto dove sono vissute le persone che hanno preso questa decisione. Forse sono vissute sulla Luna, perché l'Italia è un paese pericoloso. Portare in piazza centinaia di migliaia di cittadini di tutto il mondo senza organizzare dei validi servizi d'ordine, secondo me è una responsabilità gigantesca. E questa era una delle cose che mi faceva stare male, proprio non capivo, non riuscivo a capire, perché era più forte di me. E quindi anche queste considerazioni mi resero difficile andare a Genova. Mi sembrava che ci fosse un copione già scritto, cioè che ciascuno andava a Genova a rappresentare una messa in scena tragica. E poi purtroppo è stata tragica. Io ho vissuto indirettamente tutta questa roba, perché tutti i miei amici, compagni, centinaia di persone che ho conosciuto nei decenni precedenti, quando siccome ho fatto molta attività, diciamo, sociale e anche politica, erano tutti là ed erano tutti in trappola. E quindi mi sono interessato fin da subito a questa cosa, ho tentato di raccontarla fin da subito, cercato degli strumenti per raccontarla, e gli atti dei processi mi hanno dato questo strumento, questi strumenti che mancavano prima delle sentenze, che poi sono sentenze molto importanti. Così il regista Daniele Vicari, il regista del film Diaz. Buongiorno a Lorenzo Guadagnucci, ciao. Ciao, buongiorno. Grazie di essere con noi, Lorenzo. Lorenzo Guadagnucci è la giornalista, una delle persone che era all'interno della scuola Diaz quella notte. E tu, insomma, la tua figura viene interpretata da Elio Germano in questo film. Parto con la stessa domanda che sto facendo agli ascoltatori. Ti è piaciuto, nel senso, insomma, come ti sembra questo film? Sì, ora un giudizio estetico mi sembra che non sia... È chiaro che non è così, da parte, certo, mia, ovviamente non avrebbe nessun rilievo, quindi magari per quello ci si può rivolgere ai critici cinematografici di professione. Ma io dico le cose che mi sono venute in mente con una premessa, cioè che questo film comunque è da vedere, perché in qualche modo intanto rompe una certa congiura del silenzio dei grandi media su questi temi, e dall'altro documenta qualcosa che non si era mai visto, cioè quello che è avvenuto all'interno della scuola Diaz e all'interno della caserma di Bolzaneto, dove non c'erano macchine fotografiche, telecamere, quindi le cose le hanno viste solo chi le ha vissute. Sotto questo profilo il film è importante, perché veramente ha una funzione esplicativa, riuscendo anche ad essere piuttosto fedele rispetto a quanto accaduto, almeno per quello che posso testimoniare sulla Diaz. E dall'altro lato però devo dire che all'uscita del film sono rimasto con un senso di insoddisfazione, di straniamento. Questo film io credo che sarebbe stato molto utile averlo una decina di anni fa, quando mostrare queste violenze, far capire veramente, come dice Vicari, a quel 99% di italiani che pensano che abbiano fatto bene a fare queste cose, forse a quell'epoca avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi. Quello che è successo in questi 10 anni e che nel film non c'è, dal mio punto di vista, ovviamente il mio punto di vista di un attivista che cerca di incidere sulle cose e di farle prendere un certo corso, secondo me è addirittura più importante del mostrare le violenze. Ecco, Lorenzo, sì, prego, prego. Mi riferisco al fatto che quella caduta di legalità costituzionale, quell'abuso di potere gigantesco è stato legittimato dalle istituzioni, dalla Polizia di Stato, non è stato ripudiato, i processi sono stati ostacolati, gli altissimi dirigenti che hanno partecipato a quell'operazione si sono avvalsi della facoltà di non rispondere in tribunale. Questi sono tutti fatti che a mio avviso sarebbe stato opportuno inserire nel film, perché avrebbero forse permesso di avere una visione più completa e soprattutto più legata all'attualità e al nostro futuro. Ecco, riguardo a questo, proprio a quello che tu hai detto adesso, il regista nell'intervista dice: io mi sono basato sugli atti dei processi perché comunque finalmente c'erano dei documenti che ricostruivano quello che era accaduto, quasi che dal suo punto di vista, mi sembra di capire, forse prima non si poteva fare perché non c'era qualcosa su cui basarsi. Ma ora questo ovviamente gli atti processuali riportano dei fatti che sono acquisiti storicamente, quindi ce ne sono anche altri che potevano essere presi in considerazione, penso ad esempio alla testimonianza in tribunale di Andrea Assi che ha dato una spiegazione abbastanza chiara del perché ricordiamo proprio l'esplosione di violenza alla Diaz. Proprio per questo difetto della memoria, Lorenzo, ricordiamo chi era Ansoino Andrea Assi. Andrea Assi era il vice capo della polizia dell'epoca, il quale unico praticamente a testimoniare in tribunale su questi fatti, quindi rompendo l'omertà dei vertici di polizia, ha detto che l'operazione Diaz fu compiuta perché la polizia di Stato si trovò in gravissimo imbarazzo, in particolare il capo dell'epoca De Gennaro, di fronte al fallimento dell'ordine pubblico si trovò nella condizione di dover dimostrare di essere efficiente, mandare un messaggio, questo lo aggiungo io, anche al governo in carica. Andrea Assi disse che di fronte a un fallimento nella gestione dell'ordine pubblico si opera normalmente andando ad eseguire arresti, diciamo, di gruppo, di massa. Per questo si arrivò a scegliere, a indicare questa necessità di fare un arresto consistente e poi si scelse di farlo alla Diaz per ragioni evidentemente di tipo politico, perché permetteva, avrebbe poi permesso a Silvio Berlusconi, come si vede alla fine del film, di dire che GSF e Black Bloc erano tutt'uno. Dietro ci sono altri fatti, che sarebbe stato opportuno rendere più espliciti, mi riferisco anche alle figure dei dirigenti che sono rimasti implicati in questa vicenda, che sono stati anche condannati, di cui si vedono forse le figure ma non è possibile identificarli non solo per il nome ma nemmeno per il ruolo che occupavano allora e che occupavano oggi. Anche il fatto di sapere che questi dirigenti nel frattempo, 11 anni dai fatti, sono stati promossi, secondo me è un'informazione importante ed è un fatto, non è un'interpretazione, un'opinione, come il loro rifiuto di collaborare con la magistratura. Su questo punto devo dire, concordo con il giudizio che ha dato Paolo Mereghetti, il critico del Corriere della Sera, che dice che non entrando sul terreno delle responsabilità, il film in qualche modo limita se stesso, lascia qualcosa di incompiuto. Vicari dice che ha voluto porre domande, tocca a noi cercare le risposte, questo è vero, ne prendiamo atto, ma ovviamente, come dire, è anche giusto esprimere qualche perplessità sul come È stato svolto, certo, insomma, e questo è il dibattito. Un'ultima domanda, Lorenzo, è quella che ci porta invece a giugno, perché anche i nostri ascoltatori stamattina ci hanno chiesto ma come sono messi i processi sulla Diaz. Insomma, io ho dato una prima risposta, quello di giugno è un appuntamento fondamentale con la Cassazione. Sì, è fondamentale perché purtroppo abbiamo delegato alla magistratura il compito di intervenire su questa materia, mentre a mio avviso la funzione principale sarebbe stata quella della politica, della cittadinanza, di una, come dire, un esercizio di democrazia rispetto a questo abuso di potere che non c'è stato. La magistratura io temo che farà quello che tutti si aspettano, cioè che interverrà la Cassazione, farà quello che tutti si aspettano, cioè che questo processo finirà in un niente. Lo dico perché ci si prepara a questa udienza come a un fatto assolutamente eccezionale. 5 giorni di udienze, dicono gli esperti, nemmeno per il maxi processo era stato di Palermo alla mafia era stato previsto niente del genere, addirittura 2 relatori anziché uno, quindi la sentenza sarà in qualche modo passata ai raggi X. Io credo che difficilmente una sentenza così complessa e così articolata non avrà difetti. Io sinceramente devo dire, con tutta la serenità del caso, mi aspetto che ci sia, se non una soluzione completa, un rinvio della sentenza alla Corte del Tribunale, e sappiamo che questo comporterebbe la prescrizione. Purtroppo il consenso bipartisan, la protezione bipartisan che è stata garantita alla dirigenza di polizia in questi anni, temo che avrà un forte effetto di persuasione morale sulla Cassazione. Ci fermiamo qui per il momento, ovviamente con Lorenzo Guadagnucci abbiamo vari modi e vari momenti per risentirci e uno di questi sarà insomma nei mesi futuri. Grazie, grazie. Grazie a voi. Ciao, Lorenzo Guadagnucci, giornalista, era all'interno della scuola Diaz e dal 2001 in poi lui è impegnato nel Comitato Verità e Giustizia proprio perché su questi fatti continua a essere alta la memoria e la verità. Alle 9:14 ci state scrivendo in molti, c'è qualcuno anche che ci dice ma dove si può vedere il film a Bologna? Io lo ricordo, hai fatto bene, una giusta domanda, al Cinema Rialto in via Rialto e al Cinema Lumiera, sono le due sale dove in questo momento si può vedere il film Diaz. Alle 9:16 minuti proseguiamo con un altro ospite. Buongiorno a Claudio Gerdulo, segretario del SILP, il sindacato dei lavoratori di polizia a voi. Della CGIL, dico bene, no? Sì, perfetto. Senta Gerdulo, io insomma siamo già nel caldo della nostra riflessione anche con gli ascoltatori. Le voglio proporre questa mail di un ascoltatore che dice: l'idea di vedere Diaz in una sala con dei poliziotti presenti me lo ha impedito. Avrei potuto dire e fare cose di cui pentirmene. Ho scoperto che il trauma è lì, ancora tutto intero, un groppo di rabbia che non se ne va. Forse potrò vederlo in un ambiente collettivo, protetto, magari versando quelle lacrime mai arrivate. Questa è una persona che ovviamente sicuramente c'era in quei giorni a Genova e che insomma conosce questa vicenda. Le leggo questa mail perché come dire c'è un forte antagonismo anche, no, verso la polizia che nasce anche da quello che è accaduto nel 2001. Tutto questo è prodromico anche alla mia domanda se il film le è piaciuto. Sappiamo che l'ha visto. Sì, l'ho visto, il film ha i suoi meriti e i suoi limiti. Il merito è quello di aver stimolato una riflessione su una delle pagine ovviamente più dure e più drammatiche della storia contemporanea del nostro paese, una vera e propria ferita nei rapporti con la società civile, questo è il merito. Il limite è quello di non chiedersi il perché è successo tutto questo. Cioè, colgo uno sforzo di rigore nella ricostruzione dei fatti, infatti regista e produttore hanno dichiarato che si è fatto un grande lavoro di analisi delle fonti giudiziarie e si coglie questo rigore nella ricostruzione, però non c'è per esempio la dimensione politica, non si può capire Genova se non si fa una riflessione sugli obiettivi politici che in quel momento il governo in carica aveva. Ci dica il suo perché. Ma il mio perché è perché esattamente quel governo aveva l'obiettivo di delegittimare la piazza. Siamo nell'estate del 2001, in pentola bolle una finanziaria molto dura, quel governo aveva l'incubo del 94, della spallata che le grandi manifestazioni di piazza avevano dato appunto a quel governo, erano le manifestazioni sulle pensioni, quel governo ha paura della saldatura in autunno tra forze moderate e forze progressiste attraverso le proteste di piazza. Gerdulo, l'obiettivo era quello di delegittimare la piazza. Mi scusi però, a marzo, pochi mesi prima, nella caserma Raniero di Napoli non erano avvenuti fatti così dissimili, almeno nelle denunce dei manifestanti. Era un governo di centrosinistra. No, c'era già l'area del centrodestra. Chi ha vissuto quel momento e chi l'ha vissuto dal di dentro non può non sapere che quel governo, quella maggioranza ormai, erano gli ultimi mesi, quel governo e l'ultimo quella maggioranza mese. Ormai, Sì, nel paese si sapeva che ormai ci sarebbe stato un governo centrodestra. Senta Giardullo, lei appunto ci parla di un film che lascia inevase le responsabilità della politica. Lei invece, per quanto riguarda invece le responsabilità della polizia, cosa ci dice? Ci sono dei processi ancora in corso rispetto ai quali ovviamente non mi posso pronunciare, ma sin da subito noi abbiamo detto in quell'estate chi ha sbagliato paghi. Guardi, è una cosa che non si sa molto, ma qualche settimana dopo i fatti di Genova noi facemmo una riunione serratissima ma importante con il Social Forum, la facemmo nella riunione della CGIL nazionale, perché c'era chiaro che in quel momento si stava aprendo una ferita, si stava aprendo un varco pericolosissimo tra società civile e forze di polizia. Allora facemmo questa riunione, 3 ore, molto serrate come dicevo, alla fine uscimmo con 2 parole d'ordine comuni. La prima era chi ha sbagliato paghi, la seconda, la violenza non può essere uno strumento di lotta politica. Le voglio chiedere anche una cosa, nel senso che in questi 10 anni, il Viminale ha provato a porre rimedio dal suo punto di vista, sono state fatte delle scuole, no, per la gestione dell'ordine pubblico, però quello che a me preme chiederle è come sta la polizia da un certo punto di vista, le persone che lavorano nei reparti mobili, cioè che cultura c'è al loro interno, insomma lei è rappresentante di un sindacato che comunque ha fatto un lavoro nella sua storia all'interno della polizia, però come dire, la maggior parte dei poliziotti come stanno? Allora, la stragrande maggioranza dei poliziotti ovviamente ogni giorno fa il proprio lavoro, spesso difficilissimo, ispirandosi alla legge, alla Costituzione, al rispetto dei diritti, non c'è dubbio. Se non fosse così, le forze di polizia non sarebbero in testa al gradimento dei cittadini italiani, lei lo sa, in ogni sondaggio che si fa su questo versante, le forze di polizia vengono al secondo posto dopo il capo dello Stato, un motivo ci sarà, in tanti anni non potrebbe essere se no diversamente. Questi 10 anni non sono passati in vano, ovviamente noi abbiamo lavorato, lei lo accennava, abbiamo lavorato perché si spiegasse un pochettino, si capisse come mai era potuto succedere, ma anche e soprattutto perché cosa fare perché non succedesse più. E allora abbiamo lavorato sulla formazione, che non è soltanto addestramento, è formazione e consapevolezza di sé, del ruolo che si ha in una democrazia matura, formazione e consapevolezza del ruolo di difesa che hanno le forze di polizia. La scuola di polizia è stata fatta nell'ordine pubblico proprio su spinta delle organizzazioni sindacali e della nostra in particolare, come lei può immaginare, proprio perché immaginiamo che la formazione è una specie di anticorpo, alcuni obiettivi non sono conquistati per sempre, neanche nelle forze di polizia, la riforma fu una conquista democratica e una polizia più trasparente ovviamente è un'importante conquista democratica, è un errore pensare che siano obiettivi conquistati per sempre. Ma secondo lei le cose sono migliorate? Cioè, sì, non c'è dubbio. Lei è convinto di sì? Non c'è dubbio, ma anche, voglio dire, l'idea che oggi si parli assieme di un film che rievoca quei giorni... Ma anche in piazza? Anche in piazza, secondo lei non... Lei non anche vede ogni tanto pericolose derive in alcune manifestazioni? Insisto, quello che ho detto poco fa, nessuno può pensare che alcuni obiettivi siano conquistati per sempre. E anche qui io ribadisco, la politica non è una dimensione secondaria. E separata, certo. Le faccio un'ultima domanda, Giardullo, tornando proprio al G8 che evidenziò un tema che poi ogni tanto torna, cioè quello dell'identificazione. Ma sul piano tecnico, perché il rischio in singole situazioni, magari di isolamento di qualche operatore, un singolo operatore che a torto a ragione potrebbe essere considerato come artefice colpevole di alcuni comportamenti, poi può rischiare veramente la vita anche in certe situazioni, non può essere sottovalutato. In un sistema trasparente, e noi a quello ovviamente puntiamo, tutto quello che succede dopo sul piano giudiziario, anche le responsabilità dei singoli e dei gruppi, possono e devono essere messi in evidenza con la collaborazione da parte di un'istituzione che vuole essere trasparente, ma in quei minuti, a volte dei secondi, come dire, alterare il livello di rischio di un operatore che già fa un lavoro che non è, come dire, non è esente da rischi, ma metterlo nelle condizioni di dover pagare sul campo magari colpe che non ha, è una cosa veramente inaccettabile per chi fa quasi ogni giorno questo lavoro. Senta, proprio la voglio salutare con questa domanda perché ci stanno arrivando diversi messaggi su questo che ci dicono perché i poliziotti che erano la Diaz, insomma anche quelli che sono stati condannati, sono ancora tutti in polizia. Una domanda a cui abbino questa: cosa si aspetta dalla Cassazione? No, guardi, io non mi tanto devo so che niente. No, certo. Non mi devo, non ho delle aspettative io personali rispetto, ho delle aspettative generali per il paese ovviamente, cioè che il sistema giudiziario sia messo nelle condizioni di fare il suo lavoro. Questa faccenda non può riguardare soltanto le forze di polizia e sarebbe veramente, insomma, un po' ingeneroso pensare che sia un problema soltanto delle forze di polizia. Però secondo lei è giusto aspettare i 3 gradi di giudizio prima di prendere provvedimenti? Ma in generale, guardi, c'è un sistema che è considerato di grande garanzia in questo paese. Il punto è che ognuno di questi 2 gradi dovrebbe essere molto più celere di quello che è. Non ho bisogno di dirle il sistema giudiziario in che condizioni versa. Ci fermiamo qui, la ringrazio. Grazie a voi. Claudio Giardullo, segretario del SILP, Sindacato Lavoratori di Polizia della CGIL. Buona giornata, grazie. Anche a voi, grazie. E questa era l'ultima voce, anche perché sono le 9:26 minuti. Fra poco vi farò sentire un minuto di una voce registrata, è la nostra Damiana Guiari, ma la legge parole di un'altra sindacalista di polizia, Rita Parisi del SIULP, che non poteva essere nostra ospite per problemi lavorativi, ma insomma aveva scritto una nota e ve ne voglio far sentire un pezzo. Ci scrivono, ci scrivete in tanti, un esempio di manifestazione subito dopo Genova fu Firenze: se non vogliono fare i poliziotti come da Costituzione, che facessero un altro lavoro. E poi ci scrive anche a proposito del film un altro ascoltatore: penso che per chi non conosca bene la vicenda sia molto difficile capire tante cose, il contesto del G8, i rapporti tra i dirigenti della polizia, la tensione e rabbia nei poliziotti in quei giorni, e poco chiara anche la necessità di fare arresti. Ma quello che più mi ha dato fastidio è il fatto di avere fatto un eroe di Fournier, Michelangelo Fournier, che è rappresentato da Claudio Santamaria, ed è quello che a un certo punto dentro la Diaz dice basta, basta. Per carità, è vero che ha detto basta, ma scrive il nostro ascoltatore, è una merda anche lui, e li ha coperti per tanto tempo, anzi è un'ascoltatrice, Marcella. E poi ci scrive qualcuno che dice: responsabilità politica, riferendosi alle parole di Lorenzo Guadagnucci, credo, abbiamo ancora paura di informare. Confesso che non ho capito bene questo messaggio, caro ascoltatore. E poi ancora, come racconta Don Gallo, interessante il gioco delle parti precedente al G8, da Cofferati in poi. Forse sarebbe andata diversamente. Un altro messaggio che contiene veramente tante riflessioni al suo interno, e probabilmente bisognerebbe fare anche un'altra puntata su questo tema. Vi lascio con queste parole lette dalla nostra Damiana Guiari, ma le ha scritte la sindacalista del SIULP Rita Parisi, e vi lascio al GR di Popolare Network delle 9:30, poi rassegna stampa nazionale che questa mattina è curata da Giorgio Tinelli. Grazie di aver partecipato a questa trasmissione. Diaz, ve lo ricordo ancora, è al Lumière e al Cinema Rialto, almeno per quanto riguarda Bologna. La vicenda politica. Le risposte giudiziarie sono già negli atti processuali, cui il film si attiene scrupolosamente, essendosi ispirato solo ed esclusivamente a quanto già oggetto del vaglio della magistratura. Nel dibattito che in questi anni si è sviluppato sulle tragiche vicende di Genova non mancano infatti le risposte, ognuno ha la sua, mancano le domande. Ci siamo chiesti quali fossero le responsabilità dei poliziotti e quali quelli dei manifestanti, come se fossero solo due opposte tifoserie. Ma non ci siamo chiesti, ad esempio, cosa fosse invece accaduto ad una polizia che nasce da un movimento democratico voluto da poliziotti coraggiosi negli anni 70 e finisce per macchiare di sangue i sacchi a pelo di una generazione che desiderava, legittimamente e semplicemente, un cambiamento. Così come lo desideravano quei poliziotti che non volevano picchiare gli operai, ma tutelare i diritti di libertà degli uomini e delle donne di questo paese e non essere più un corpo separato dalla società, ma parte integrante di un sistema democratico in cui chiedevano piena cittadinanza. A 11 anni di distanza dal G8 di Genova, il film diretto da Daniele Vicari, forte di una connotazione anche documentaristica di quanto narrato, può aiutare la categoria e la società civile a ragionare più serenamente, a porci le domande giuste e a non dimenticare le vittime, sia le vittime delle violenze sia le vittime di un'evoluzione democratica che ha assegnato ai lavoratori di polizia un ruolo che non somiglia a quello faticosamente costruito da chi aveva smilitarizzato il disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza.